e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno Deborina. Tutto bene? Benissimo, iniziamo. Passato un buon fine settimana? Direi di sì. Non possiamo pronti. Lamentarci. Allora, vi auguriamo in questo caso un buon inizio settimana. Come sempre il lunedì il nostro pensiero va in particolare a tutti coloro che riprendono a lavorare, quindi anche a noi, dopo la pausa del weekend. Ma sappiamo che può essere ancora più difficile il lunedì mattina di chi un lavoro in questo momento non ce l'ha. Di ricerca del lavoro torniamo a parlare oggi nella prima parte di Cuore e Denari. In particolare parleremo degli strumenti e delle opportunità messe a disposizione dal settore pubblico, che sappiamo non sempre funzionano al meglio. Ne parliamo perché giovedì sarà l'Employers Day in Italia, un progetto condiviso a livello europeo per favorire l'incontro fra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro. Progetto alla sua prima edizione che porta la firma della Rete Europea dei Servizi Pubblici per l'Impiego, PES Network. Radio 24 dedicherà un Radio Day con 6 appuntamenti al termine dei GR principali e seguendo gli eventi dedicati a questa giornata in tutta Italia. Noi oggi a Cuore Denari la anticipiamo e soprattutto l'anticipiamo chiedendo a voi la vostra partecipazione all'800 24 00 24. Vogliamo che vivacizziate il nostro programma stamattina raccontandoci quali sono i canali che avete scelto per cercare lavoro. In teoria il centro per l'impiego dovrebbe essere la prima chance. L'avete tentata? Che servizio avete ricevuto? Vogliamo raccontare le criticità dell'area pubblica, ma anche speriamo le buone pratiche sul territorio italiano. E anche nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo di lavoro e lo faremo naturalmente dal punto di vista della salute. Oggi in particolare ci occuperemo dei turnisti. I dati ci dicono che in Europa un lavoratore su 5 non svolge il suo lavoro nelle classiche convenzionali 8 ore diurne, ma ha un impiego caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ore di lavoro irregolari. A farne le spese non sono solo le relazioni personali, familiari, amicali, che diventano più difficili da instaurare e da mantenere, ma anche e soprattutto lo stato di salute generale: sovrappeso, disordini del sonno, stress, difficoltà digestive, depressioni. Alcuni di questi problemi derivano dallo stile di vita, ma sono anche la conseguenza delle alterazioni dei ritmi circadiani che regolano molte funzioni del nostro organismo. Se avete finito il vostro turno, chiamateci. Se lo state per cominciare, affrettatevi, 800 24 00 24 per raccontarci la vostra esperienza. Oggi misure preventive, consigli mirati per ridurre rischi e disagi del lavoro a turni. E su, sei sempre il più. E giù, sei un uomo in più. E su, sei sempre tu. Mercato del lavoro altalenante che risente di una congiuntura economica nazionale ed internazionale che continua ad essere ancora debole ed è fragile soprattutto nel nostro paese. Questo dato sull'andamento del mercato del lavoro ci troviamo a commentarlo ogni mese quando arrivano i numeri dall'Istat. Allora, proprio venerdì è stato diffuso il nuovo dato sulla disoccupazione italiana, è il dato che si riferisce al mese di febbraio, siamo all'11,7%, un nuovo incremento rispetto a gennaio. Vanno un pochino meglio le cose sul fronte della disoccupazione giovanile che scende dal 39%, quantomeno abbiamo abbattuto questa soglia molto critica del 40%. L'ultimo anno è stato pieno di cambiamenti per il mercato del lavoro italiano, che si è confrontato con tutte le novità introdotte dal Jobs Act. Ci sembrava utile allora stamattina fare un punto della situazione su alcune iniziative specifiche varate dalla riforma del lavoro proprio in questa giornata, perché giovedì sarà l'Employers Day italiano. Si tratta di un progetto condiviso a livello europeo per favorire l'incontro fra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro. È un progetto alla sua prima edizione che porta la firma della Rete Europea dei Servizi Pubblici per l'Impiego, la PES Network. Quindi da oggi a 15 aprile ciascun Stato membro dell'Europa, in accordo con la strategia europea, organizza una serie di iniziative sulla base delle proprie priorità nazionali. L'Employers Day italiano, come vi dicevo, è stato fissato per giovedì 7 aprile, ma noi lo anticipiamo oggi e per farlo abbiamo invitato niente poco di meno che il professor Maurizio Del Conte, da pochi mesi presidente dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che salutiamo. Professor, buongiorno. Buongiorno, professor. Buongiorno. Ho detto tutto correttamente? L'ho presentata bene? Sì, benissimo. Segnalo anche agli ascoltatori che il professor Del Conte è anche docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Col professor Del Conte stamattina parleremo delle funzioni di questa agenzia che sta muovendo i suoi primi passi in Italia con il solito taglio pratico e concreto di cuore e denari. Quindi a che cosa e a chi serve? Che funzioni di coordinamento ha un'agenzia di questo tipo in un paese in cui le competenze della gestione delle politiche del lavoro sono demandate in gran parte alle regioni? Come si pensa di rilanciare l'attività dei centri per l'impiego in Italia e come si pensa soprattutto di ripristinare negli italiani, in particolar modo fra coloro che in questo momento un'occupazione non ce l'hanno, un po' di fiducia in quello che può fare per loro il settore pubblico? Quindi 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci la vostra esperienza con il centro per l'impiego della vostra città. Come è andata? Come siete stati seguiti? Perché c'è un gran dibattito sull'utilità di queste strutture, come è noto appunto, e qualche volta le derive polemiche hanno avuto anche la loro ragione di circolare. Quindi chiediamo a tutti voi quali sono i canali che avete scelto per cercare dal lavoro. Se il centro per l'impiego del luogo in cui abitate è stata la prima chance, che servizi avete ricevuto e quindi criticità, ma anche, se possibile, speriamo, le buone pratiche sul territorio. Allora, professor Del Conte, io ho fatto un preambolo lunghissimo per far calare bene i nostri ascoltatori nel tema di questa mattina. Le chiedo immediatamente il biglietto da visita dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. In che direzione si è impegnato in questi primi mesi di attività? Noi stiamo lavorando per mettere in piedi la struttura che è naturalmente fatta di persone, ma è anche fatta di mezzi e soprattutto di mezzi informatici, perché oggi per trovare un lavoro bisogna mettere insieme le informazioni che vengono dalle imprese, dal territorio e naturalmente da tutti quelli che cercano lavoro. È la cosa abbastanza incredibile è che fino ad ora non sia stata realizzata in Italia un portale attraverso il quale dialogano tutti i soggetti in un unico canale, in modo che si sappia esattamente quali vacanze ci sono, quali posti di lavoro vengono richiesti e quali evidentemente sono invece le professionalità che vengono offerte sul mercato. Noi sappiamo benissimo che in Italia la maggior parte dei contratti di lavoro si attivano per relazioni personali, cioè per conoscenze che ciascuno di noi ha. Questo però crea una disfunzionalità del sistema, una segregazione di chi ha meno opportunità, meno conoscenze di partenza, quindi un'emarginazione dei soggetti più deboli con un effetto di non premiare il merito ma premiare soltanto le conoscenze personali. Adesso allora ho capito, professor Del Conte, perché lei in alcune interviste che ha rilasciato nelle ultime settimane aveva definito l'agenzia che adesso presiede appunto la cabina di regia che non c'era. Sì, una cabina di regia, un punto di riferimento. Oggi appunto voi giustamente, credo meritoriamente, dedicate questa trasmissione ai servizi per l'impiego, ma io ho la sensazione che nella opinione comune i servizi per l'impiego siano un'entità un po' astratta, difficile da individuare. Oggi c'è un soggetto che si chiama ANPAL che avrà, perché in verità non siamo ancora operativi, ma ci stiamo lavorando per esserlo al più presto, avrà un suo portale, avrà un suo centro di ascolto e quindi sarà assolutamente e immediatamente diventerà un interlocutore di chi cerca lavoro e di chi offre lavoro. Purtroppo io non so poi quali saranno le telefonate che verranno dagli ascoltatori, che cosa ci diranno, ma sappiamo già che si aspetta di sentire lei, professor Del Conte? Magari li inviti lei a raccontare ai nostri ascoltatori le loro esperienze. Che cosa le potrebbe essere utile sapere per far funzionare al meglio l'agenzia appunto che presiede? Suggerimenti perché io credo che alla fine gli utenti, cioè quelli che davvero vanno alla ricerca di un servizio, sono quelli che meglio possono rappresentare quali sono le loro esigenze, quindi ciò di cui sentono il bisogno. Poi so che c'è tanta aneddotica, però sa, dietro l'aneddotica spesso si nasconde un po' lo spirito italiano del siccome mi è andata male una volta è tutto da buttare. Io credo che invece si debba recuperare il il meglio che c'è sul territorio e, come dicevate voi, come diceva lei in presentazione, tirare fuori dalle buone pratiche, dalle pratiche migliori, i modelli replicabili e replicati su tutto il territorio. Allora, noi di questo abbiamo bisogno, cioè noi abbiamo bisogno, purtroppo, avendo avuto un sistema così frammentato, ciascuno ha lavorato nel suo piccolo, nel suo territorio, senza condividere il buono che ha fatto, e questo purtroppo ci ha lasciati indietro nel confronto con gli altri paesi europei. Benissimo, allora lo spirito con il quale si muoverà l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro lo abbiamo compreso, adesso andremo proprio agli aspetti ancora più pratici e concreti. E a proposito, peraltro, di spirito invece polemico con cui molto spesso è circondato il dibattito intorno alla funzionalità, all'attività dei centri per l'impiego, è già pronto un ascoltatore per lei, professor Del Conte, fra un po' lo sentiremo, Renato da Chieti, che ragiona proprio sulla scia di considerazioni già fatte sull'attività di questi centri, ma lo risentiremo naturalmente volentieri. Intanto voi raccontateci all'800 24, raccogliete l'invito che il professor Del Conte ha fatto, suggerimenti, che cosa vi aspettate dal settore pubblico per ricollocarvi se ne avete bisogno sul mercato del lavoro, o anche per collocarvi per la prima volta, perché credo che anche per i giovani sarà, visto che utilizzano moltissimo internet, uno strumento molto importante per capire di che tipo di professionalità c'è bisogno sul territorio. Ci fermiamo, Nicoletta, tempo? Sì, c'è bisogno di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia. E parliamo di lavoro oggi in occasione dell'Employers Day, un progetto europeo che vuole favorire l'incontro fra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro. È un progetto alla sua prima edizione, organizzato dalla Rete Europea dei Servizi Pubblici per l'Impiego. In Italia questa giornata si celebra il 7 aprile, noi la anticipiamo oggi a Cuore e Denari grazie alla presenza nel nostro programma del professor Maurizio Del Conte, da pochi mesi presidente dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Sta nascendo questo grande portale italiano pubblico per naturalmente favorire l'incontro fra domanda e offerta nel lavoro, una cabina di regia l'abbiamo chiamata, che fino a questo momento non esisteva, anche se, professor Del Conte, poi magari lo facciamo in un secondo momento questo ragionamento, noi alcune istituzioni pubbliche che avevano l'obiettivo di favorire le politiche attive del lavoro le conosciamo già, perché abbiamo Italia Lavoro, l'abbiamo ospitata anche altre volte, fanno un gran bel festival a Montepulciano, ci siamo anche andate con Cuore e Denari, c'è Click Lavoro, ci sono in realtà delle organizzazioni già operative. In che cosa vi differenzierete voi o le assorbirete? No, le metteremo insieme. La chiave appunto è questa, cioè purtroppo avere tante iniziative disperse non ha aiutato a fare sistema, non ha aiutato a prendere quello che davvero di buono è stato fatto, e invece purtroppo molto spesso è andato sprecato. Io credo che Italia Lavoro sarà per esempio un'agenzia utilissima per dare servizi alle imprese che spesso non trovano le professionalità di cui hanno bisogno, ma anche agli stessi centri per l'impiego che magari hanno bisogno di essere aggiornati, di essere formati rispetto anche al cambiamento del quadro normativo. Lo sa che continuo ad interromperla, ma perché lei su ogni ragionamento mi lancia degli assist che vorrei ulteriormente approfondire, perché è un proprio su questo stimolante. Esatto, no, ci stavamo ragionando con la collega, con Nicoletta Carbone a microfoni spenti, e no, Nicoletta, tu avevi una curiosità sull'attività dei centri per l'impiego nuovi, nella nuova versione che dovremo vedere in futuro. Sì, che profilo avranno le persone che aiuteranno chi cerca lavoro? Cioè, grazie avranno alla spinta particolare che arriverà dall'Agenzia Nazionale, avranno delle particolari competenze. Come si distingueranno dalla gestione, mi passi il termine, vecchia maniera, no? Allora, noi non dobbiamo dimenticare che i centri per l'impiego hanno una storia antica che parte da una funzione tutta diversa. Una volta il centro per l'impiego era sostanzialmente un punto amministrativo che gestiva liste di disoccupazione, quindi senza una vera professionalità riferita alle cosiddette politiche attive, cioè come davvero prendere in carico il disoccupato, vedere le sue competenze, fare un bilancio anche della sua gap rispetto alla conoscenza e alla professionalità relativamente al mercato. Ecco, tutto questo purtroppo nella tradizione dei centri per l'impiego si è venuta sviluppando soltanto in tempi recenti e non dappertutto nello stesso modo. Dicevo prima, Italia Lavoro ha invece questa specifica competenza e quindi può trasferirla, quindi può formare gli operatori, può aiutare a creare un modello che sia poi valido su tutto il territorio. E poi naturalmente ci sarà un rafforzamento dei centri per l'impiego, cioè ci saranno forze fresche che entreranno, io mi auguro anche di poter abbassare l'età media degli operatori dei centri per l'impiego, ma non perché quelli più anziani non vadano bene, ma perché c'è anche bisogno un po' di forze fresche e che conoscano meglio soprattutto tutto quel mondo digitale attorno al quale ormai si muove chi, soprattutto nelle ultime generazioni, entra, si affaccia per la prima volta al lavoro. E insomma, vedremo anche una staffetta generazionale. Quindi anche all'interno dei centri per l'impiego italiani. Subito gli ascoltatori pronti per lei, professor Del Conte. Hanno raccolto immediatamente il suo invito. Noi volentieri condividiamo insieme a lei appunto le esperienze dei nostri amici che ci chiamano all'800 24 00 24. So che avevo lanciato la considerazione di Renato Dacchieti, ma non si arrabbierà Renato, appunto, se diamo la precedenza ad un'ascoltatrice, perché mi interessava molto l'esperienza che ha avuto a Crema. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Quindi chiedo a Renato di fare il cavaliere, ci perdonerà. Ci dica. Allora, niente, praticamente io purtroppo ho perso il lavoro da poco, a gennaio, e ho fatto tutta la prassi per la disoccupazione, quindi sono passata per l'ufficio dell'impiego di Crema. Per carità, persone gentilissime e tutto quanto, però la cosa che mi ha lasciato molto perplessa, tenendo conto che io ho 50 anni, quindi ho un'età abbastanza avanzata, è un profilo diciamo, complesso. Ecco, e la cosa che mi ha lasciato perplessa è che loro spingono moltissimo a fare domanda alle agenzie interinali e lì ci sono rimasta un po', anche perché sappiamo che purtroppo le agenzie interinali cosa fanno? Ti danno dai 15 a un massimo di 3 mesi di lavoro e va avanti così. Nella zona dove abito io funzionano tutte così, cioè le aziende ti prendono per massimo 3 mesi se ti va bene, certo, e poi ti lasciano a casa, massimo 15 giorni e poi ti lasciano a casa. Quindi se l'ufficio dell'impiego fosse veramente, come diceva il professore, un trade union appunto con le agenzie, con il datore di lavoro, anche per noi che siamo di età un pochettino più avanzata, diciamo, avremmo anche l'occasione poter dialogare appunto con quello che veramente offre il mercato del lavoro e non passare attraverso le agenzie interinali che purtroppo stanno prendendo piede nel mondo del lavoro, e colloquiare direttamente con un datore di lavoro è sempre meglio che passare attraverso altri canali che, certo, purtroppo non ti conoscono come grazie dovrebbero. Cristina, allora tra l'altro mi colpisce il fatto che lei abbia usato il termine purtroppo le agenzie per il lavoro private stanno prendendo piede, quindi evidentemente questa ascoltatrice preferirebbe appunto un rafforzamento dell'assistenza pubblica, professor Del Conte. Peraltro appunto i due canali in qualche maniera, perché passa l'immagine che si siano fatti concorrenza in questi anni? Perché non possono dialogare e lavorare insieme? Come peraltro penso che nel caso di Cristina sia successo, no? È stata spinta ad andare sul settore privato e poi però dice Cristina la somministrazione in questi casi per più di 3 mesi, io non posso avere la garanzia che funzioni per più tempo in sostanza. Cosa pensa di questa esperienza raccontataci dall'ascoltatrice? Ma guardi, il modello che esce dal Jobs Act è un modello di, proprio come diceva lei, di collaborazione fra pubblico e privato. Le agenzie interinali in realtà vengono chiamate da questo nuovo modello a partecipare, ma non soltanto in qualità di datori di lavoro temporanei, ma in qualità di conoscitori del mercato e quindi proprio in qualità di agenti intermediari con imprese che poi vanno ad assumere. Quindi in sostanza quello che dovranno fare, e questo sì è una missione nuova per le agenzie interinali, mettere a disposizione i loro sportelli che hanno. Tutti noi passeggiando per le strade della città ogni tanto ci incapita di vedere uno di queste vetrine, certo. No? Ecco, passare a un lavoro nuovo che è quello di mettere a disposizione le loro competenze, i loro database, che poi confluiranno anche questi nella rete nazionale, in modo da aiutare non soltanto attraverso la classica missione di lavoro interinale, ma attraverso anche proprio il contatto diretto con il datore di lavoro. Teniamo presente che su questo ci sarà lo strumento proprio messo a disposizione da ANPAL dell'assegno segno di ricollocazione. Lì volevo arrivare, professor Del Conte. Adesso devo dare la linea al giornale radio, ci prendiamo 5 minuti di pausa, ma voglio capire se Cristina potrebbe essere una fruitrice ideale di questo strumento. Ne parliamo fra pochissimi minuti. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Senti che inno di Mameli roccheggiante che ti ho trovato stamattina. Mi piace molto. Allora, siamo ripartiti a Cuore Denari con questa piccola incursione sui temi del risparmio, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze da oggi distribuisce il nuovo BTP Italia. In realtà per il Tesoro c'è l'emissione, ovviamente poi la distribuzione e la possibilità di sottoscrizione è possibile farla con Borsa Italiana o con il vostro intermediario finanziario, con la vostra banca. Quello che abbiamo riconosciuto come titolo patriottico nel 2012, lanciato in un momento di grande crisi del debito pubblico. Siamo arrivati alla nona emissione, resta un titolo a misura di piccolo risparmiatori. Noi volevo solo segnalarvi che abbiamo approfondito questo argomento nei contributi extra della nostra pagina sul sito di Radio 24. Trovate, è già pronta, un'intervista a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, che ci racconta tutti i dettagli di questa emissione. Oggi arricchiremo questa pagina anche con un contributo del nostro Gianni Lupotto, consulente indipendente, che ci racconterà nel dettaglio la differenza per il piccolo risparmiatore rispetto alle precedenti emissioni e vantaggi e svantaggi della nuova. Pregare il mondo, pregare il mondo, flessibile la terra che sto castando. Ancora qualche minuto di tempo con il professor Maurizio Del Conte, presidente dell'ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Ne stiamo parlando con lui oggi di politiche del lavoro per il nostro paese in occasione dell'Employers Day, un progetto europeo che vuole favorire l'incontro fra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro. Progetto la sua prima edizione. Da oggi al 15 aprile ogni Stato membro dell'Unione Europea organizza una serie di iniziative sulla base delle proprie priorità nazionali. L'Employers Day italiano è fissato per giovedì 7 aprile, come vi raccontavo poco fa. Noi oggi abbiamo deciso di anticiparlo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Allora, professor Del Conte, eravamo rimasti a questo strumento pensato per raggiungere un obiettivo importante in Italia, come dire, intraprendere la via italiana delle politiche attive, armonizzare il ruolo del pubblico e quello privato. Allora, prendendo a spunto anche l'esperienza dell'ascoltatrice che ci ha chiamato da Crema, secondo lei Cristina è candidata a fare richiesta di questo assegno, appunto, di ricollocazione? Che cos'è esattamente? Parliamo di un nuovo ammortizzatore sociale? Parliamo di uno strumento di politica attiva. Se Cristina è da almeno 4 mesi in NASPI, cioè nella nuova indennità di disoccupazione, ha la possibilità di fare richiesta non appena ci sarà, come dicevo in inizio di trasmissione, la struttura di ANPAL, avrà la possibilità di fare richiesta di questo assegno. Che cos'è? È una somma di denaro che viene data in forma di voucher al disoccupato stesso, perché se la spenda in servizi per la ricollocazione, cioè può andare sia in un centro per l'impiego pubblico che presso una di quelle agenzie per il lavoro, ma non per farsi dare un lavoro dall'agenzia, un lavoro interinale, ma per farsi mettere in contatto ed eventualmente ricevere la formazione che le manca per trovare un posto di lavoro direttamente con un'impresa. Quindi l'assegno di ricollocazione è un vero e proprio strumento che aiuta il disoccupato a trovarsi un posto di lavoro. A quanto ammonterà l'assegno, professor Del Conte? Questo è uno dei compiti che spettano appunto all'ANPAL in relazione, cioè all'individuazione dell'entità dell'assegno, che verrà graduato in funzione della difficoltà di ricollocare il lavoratore, e la difficoltà dipende dalle caratteristiche sue personali. Naturalmente se ha una professionalità che è ormai obsoleta, ci vorranno più ore di formazione. Dal territorio, naturalmente al sud è più difficile trovare un posto di lavoro che al nord, quindi l'assegno sarà maggiore. E da altri elementi che appunto lo contraddistinguono nel mercato del lavoro. Si parla di qualche migliaio di euro. Certo. Quindi, per quanti mesi, per quanto tempo nell'obiettivo? No, l'assegno di ricollocazione è una somma che viene spesa fino a quando non si trova un posto di lavoro, quindi fino a quando non produce il suo risultato, tenendo conto che tra l'altro il soggetto che poi materialmente incassa questo assegno, e quindi l'operatore, che sia pubblico o privato, lo incassa soltanto o prevalentemente se riesce ad ottenere il risultato della ricollocazione, quindi soltanto se c'è davvero un posto di lavoro. Questo naturalmente come forma di incentivo, non soltanto a tenere lì in caldo il disoccupato, ma a trovargli davvero un posto di lavoro. Quando sarete pronti a derogare i primi, professor Del Conte, e soprattutto quando sarete pronti con il nuovo portale nazionale? Poi le faccio sentire le ultime testimonianze, dobbiamo fare il cambio di argomento, però ecco, proprio per poter anche capire quando poterla invitare di nuovo, perché affinché ci racconti che con il portale siete pronti e domande ed offerta di lavoro in Italia a finalmente appunto questa cabina di regia. Allora, purtroppo la burocrazia italiana non ha lasciato esente ANPAL, e quindi ANPAL stessa ancora non è formalmente istituita, ma c'è un ultimo passaggio in Corte dei Conti, per cui dovremo riuscire a diventare operativi a breve. Però noi nel frattempo ovviamente abbiamo lavorato per fare tutto quello che serve per essere operativi, quindi io conto di poter rilasciare, di poter avere questo portale prima dell'estate, e quindi poi partire anche con le misure connesse. Allora, Renato da Chieti era pronto da un po', chiedo brevità. Renato, la ringrazio perché vorrei sentire anche altri ascoltatori, visto che oggi il professor Del Conte vuole tornare a casa con stimoli concreti da parte vostra, ce li ha chiesti e voi avete raccolto volentieri questo invito. Renato, benvenuto, grazie. Salve. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza personale, essendo rimasto senza lavoro nel 2011, mi sono rivolto a chi di dovere in questo contesto, iscrivendomi all'Agenzia per il Lavoro, e in 5 anni non mi hanno mai chiamato una volta. Ho saputo, perché il posto è relativamente piccolo, che altre persone in qualche modo hanno ricevuto comunque delle proposte, e anche se io avevo dato un ampio raggio di collocamento, perché essendo stato un direttore vendite anche di una multinazionale, quindi anche un dirigente, e accontentandomi tranquillamente di poter fare il venditore, il capo area o qualsiasi altro tipo di lavoro. Ma molto spesso quello in realtà, Renato, come lei sa, è un aspetto molto penalizzante sul mercato del lavoro, ne abbiamo parlato anche qualche volta, addirittura insomma le aziende ci contestano l'iperqualifica, no? E quindi anche chi si candida ad un profilo più basso viene quasi visto in maniera negativa, no? Come una persona capace di accontentarsi di tutto, quindi addirittura qualcosa che respinge al mercato del lavoro. Per cui comunque grazie per avercelo raccontato. Quindi ad oggi, Renato, nessuna... Assolutamente neanche una chiamata, ma a quanto so anche persone con lavori, diciamo con posizioni un po' più... tipo da operaio eccetera, che conosco nell'ambito di quell'agenzia, assolutamente non vengono. Quanti anni ha Renato? Adesso 57. Tra l'altro, no, stavo pensando, potrebbe essere anche un problema, a prescindere dal funzionamento del centro per l'impiego a cui si è rivolto, un problema riconducibile all'area in cui abita Renato. C'è difficoltà, 57 anni è il limite anagrafico, pure che purtroppo. No, perché comunque ho visto gli esempi di persone ricollocate in un contesto completamente differente. Certo. Quindi, cioè, il discorso di fondo è che purtroppo siamo in Italia e determinate situazioni o conoscenze spingono in un lato, meglio da un lato anziché dall'altro. Tutto Renato, qui. Esperienza negativa, vi faccio però naturalmente qua per par condicio, dobbiamo anche raccontarne qualcuna positiva, anche se purtroppo le prime stanno vincendo sulle seconde. Giacomo da Bari, benvenuto. Sì, buongiorno signore e grazie di avermi chiamato. Io volevo solo raccontare questo, io sono un datore di lavoro, una fitta camera a Caltanissetta, mi serviva per garanzia giovani trovare una ragazza con delle determinate caratteristiche. Il centro per l'impiego di Caltanissetta è stato particolarmente bravo e abile, ha seguito la ragazza, ha impostato tutta la pratica, ha fatto concludere lo stage formativo e alla fine sto cercando di assumerla. Credo che sia una cosa buona parlare anche di questo, di tutte le cose che vanno bene. Grazie Giacomo, anche perché le devo dire, noi abbiamo fatto tante trasmissioni su Garanzia Giovani, lo racconto anche al professor Del Conte, e ovviamente anche lì tutte le polemiche intorno al funzionamento di questo strumento che ha una matrice europea, sono stati destinati all'Italia 1,5 miliardi di euro. Ogni settimana il Ministero del Lavoro ci fa il bilancio su quanti giovani vengono chiamati, naturalmente quanti si iscrivono a questo programma, poi in realtà la redistribuzione sul territorio di reali posti di lavoro è stata un po' come dire insoddisfacente. Professor Del Conte, allora stiamo andando verso la chiusura, le chiedo un ultimo messaggio e sa chi vorrei lanciarlo? Proprio agli imprenditori, perché noi qua stiamo facendo delle trasmissioni in cui cerchiamo di sensibilizzare il settore pubblico a fare il suo, le agenzie per il lavoro a fare il loro, i lavoratori naturalmente ad attivarsi e non scoraggiarsi. Vogliamo fare anche un piccolo messaggio agli imprenditori? Ma assolutamente, cioè gli imprenditori devono essere i primi a giocare questa partita, cioè gli imprenditori devono capire che ci sarà un soggetto che appunto è questa ANPAL e quindi un interlocutore istituzionale al quale rivolgersi quando cercano un lavoratore. Non ha più senso questa diffidenza preconcetta verso l'intermediazione ufficiale. In realtà nel momento in cui noi saremo in grado di avere veramente un sistema informativo il più evoluto che ci sia in Italia, perché metteremo insieme tutte le banche date dall'INPS alle comunicazioni obbligatorie, alle imprese, alle agenzie, noi avremo un patrimonio informativo che nessun altro soggetto nel paese ha, e quindi per le imprese sarà un valore aggiunto, ma è chiaro che devono giocare. Cioè è chiaro che devono superare quella naturale ritrosia dell'imprenditore verso qualunque cosa che abbia a che fare col pubblico e con la burocrazia, e io invito le imprese a mettersi in contatto direttamente con ANPAL anche per dare anche loro, l'ho fatto prima con i disoccupati ma lo faccio nei confronti delle imprese, per dare i suggerimenti. Ottimo. Che ritengono utili a far funzionare. Guardi, non la metterò sotto stress prima delle ferie, ma su settembre si trovi pronto, perché noi la richiamiamo qua a raccontarci. Esatto. Professore Del Conte, la saluto, solo 5 secondi per capire, perché è uno stimolo che è arrivato da qualche ascoltatore. Sul lavoro autonomo troveremo qualche finestra su questo portale per i lavoratori autonomi che sono in grandissima difficoltà? Voi sapete che nel nuovo statuto del lavoro autonomo, sì, Jobs Act del lavoro autonomo, si prevede espressamente una finestra, o meglio uno sportello negli sportelli pubblici dedicato al lavoro autonomo, quindi sicuramente ci sarà anche questo spazio. Bolle in pentola qualcosa per fortuna anche per loro. Professor Del Conte, grazie molte per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, perché lei ha veramente un lavorone davanti a sé, un obiettivo appunto molto molto ambizioso, molta concretezza anche quella che abbiamo sentito, e quindi pronti a settembre a ripartire. La notte è più bella, si vive meglio. per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio. La se vivete sfasati, se lavorate di notte o a rotazione ad orari diversi, insomma siete turnisti, benvenuti a questa seconda parte della trasmissione dedicata a voi. Raccontateci che turni di lavoro fate, da quanto tempo e come vi sentite. Oggi ci occuperemo della vostra salute, del vostro benessere, ma soprattutto raccoglieremo le vostre esperienze, le vostre storie e anche le vostre richieste di aiuto. Ci aiuta oggi il professor Roberto Manfredini. Buongiorno professore. Buongiorno a Nicoletta, Deborah, a tutto lo staff di Radio 24 e agli ascoltatori. Ordinario di medicina interna e direttore della clinica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Professore, lavorare stanca e se il tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo diurno di 8 ore, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ore di lavoro irregolare, il problema diventa più complesso e anche più rischioso, perché ci sono fiorfiori di studio che hanno confrontato persone che lavorano le classiche 8 ore diurne con persone che lavorano a turni per arrivare a conclusioni pressoché analoghe, cioè che la salute dei turnisti è più a rischio. Sicuramente alcuni problemi possono essere in parte dovute allo stile di vita che gioco forza il turnista è costretto a seguire, ma a fare la differenza nel medio e nel lungo periodo è quella che voi descrivete come desincronizzazione dei ritmi biologici dell'organismo. Insomma, noi siamo nati per vivere e lavorare di giorno e per dormire di notte. La società è cambiata, ci vuole attivi 24 ore su 24. Purtroppo però i nostri orologi interni non si sono ancora aggiornati e a non seguire il ritmo, nel ballo come nella vita, alla fine non aiuta, professor Manfredini. È verissimo perché, come ha giustamente detto, di per sé nella nostra storia siamo animali diurni. E solamente dal secolo scorso, dall'Ottocento, diciamo, non dal secolo scorso, con la luce elettrica abbiamo sconvolto le nostre abitudini e ormai una buonissima fetta della forza lavoro lavora di notte. Quindi il problema è cercare di essere il più possibile in linea con i propri ritmi biologici e, alla peggio, perché comunque il lavoro bisogna trovarlo e spesso bisogna farlo, cercare di fare in modo che la turnazione non strida troppo con i nostri ritmi. Bisogna trovare questa specie di algoritmo. Professore, i turni sono diversi, no? Ci sono tanti possibili modelli, ci sono quello da 12 ore, il turno esteso, poi c'è il turno spezzato, la rotazione del turno in avanti, il lavoro semicontinuo, quello non si lavora nel weekend, e naturalmente si discute molto sulle caratteristiche di ognuno di questi tipi di turno. E chiedo a chi ci sta ascoltando di chiamarci, soprattutto per raccontarci la sua esperienza. Ma intanto, professor Manfredini, dal punto di vista della salute, qual è il tipo di turno che si paga di più? E quali sono i rischi che si corrono? Il turno che paga di più, tra tutti i possibili turni di lavoro che lei ha giustamente enunciato, direi che senz'altro il turno notturno, perché in opposizione al ritmo, e naturalmente aggiungiamo il turno notturno se sono prolungati, perché poi potremo vedere nell'ambito della discussione che se i turni sono più rapidamente svolti in modo rapido, più rapidi siamo e meno l'organismo, fra virgolette, si abitua al nuovo e sta male quando rientra il vecchio. Quindi direi il turno notturno prolungato, questo lo definirei il peggiore per la salute. Noi lo sappiamo, il professor Manfredini l'ha anticipato, ma naturalmente sottinteso non sempre il lavoro si può scegliere, spesso si deve fare di necessità virtù, affrontando anche molti sacrifici, rinunce, esponendosi anche a dei rischi. La situazione in alcuni casi è davvero complessa e complicata, anche se non dobbiamo dimenticare che sotto il profilo giuridico la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta in Italia un obbligo primario che è previsto dalla Costituzione e dalla legislazione. Infatti la salute è considerata nel nostro ordinamento come un bene primario e preminente rispetto ad altri, e questo immagino valga anche per chi lavora a turno. Ma ci rifacciamo raccontare tutto dall'avvocato Giampiero Falasca, giuso lavorista ed esperto per il Sole 24 Ore, un esperto di denari che rubato dalla rubato. Donna di cuore. E wow, buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, questa è una parte di Debora, praticamente io la condivido stravolentieri. Che cosa dice la legge, avvocato? Beh, allora, le opzioni sono due: o avete un'oretta di tempo, oppure sono molto sintetico, perché allora, diciamo, il lavoro a turni, in realtà, allora, la legge non dice tantissimo. C'è un decreto che si chiama Decreto 66 del 2003, che regola il lavoro a turni come il lavoro in generale. Cioè, l'orario di lavoro non ha tante eccezioni per il lavoro a turni, salvo che per due aspetti. Cioè, per il lavoro a turni si può derogare al riposo settimanale le 24 ore che hanno diritto tutti i lavoratori dopo 7 giorni di lavoro, e si può derogare anche al riposo giornaliero, il diritto alle 11 ore di riposo che hanno tutti i lavoratori. Queste deroghe però, e per questo scherzando dicevo che avete un'oretta, devono essere eventualmente attuate dai contratti collettivi. Quindi un lavoratore, per capire la disciplina del proprio lavoro a turni, deve andare a vedere nel proprio settore qual è il contratto collettivo di riferimento, prendersi questo libricino facilmente anche scaricabile da internet, e lì troverà in maniera specifica tutta la regolamentazione del proprio lavoro a turni. Di solito i contratti collettivi da un lato mettono dei paletti, quindi non esageriamo con le deroghe, e quindi magari se salta il riposo settimanale si fruiscono 2 giorni la settimana dopo, faccio un esempio abbastanza in voga, e rendere quanto più possibile eccezionale la deroga al riposo giornaliero. E terza cosa, di solito vengono pagate queste deroghe, cioè ci sono le maggiorazioni nel caso in cui scatti la deroga. Quindi insomma il lavoratore può sicuramente sapere come è regolato il suo lavoro a turni, deve andarsi a guardare il contratto collettivo, lì troverà un quadro di solito abbastanza chiaro. Quindi deve darsi da fare e andare come sempre ad informarsi. Esatto. Di lì non si le scappa. Informazioni non ti cercano, ma le devi andare a cercare. Avvocato, grazie per essere grazie. Stato con noi. A presto, avvocato grazie Frasca. A voi. Grazie a voi. Allora, noi avremo i mercati, però avrei anche Renato da Vicenza. Andiamo da Renato. Professor Manfredini, c'è Renato da Vicenza per lei. Intanto rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, puntata tutta dedicata ai turnisti. Non si lavora solo di notte, ci sono anche degli altri tipi di turno. Avete provato quali hanno impattato maggiormente sulla vostra salute, ma anche sulle relazioni, perché il turno notturno diventa molto, no, un fattore di rischio anche per le relazioni amicali, familiari, sociali. Renato, buongiorno. Buongiorno a voi, ci risentiamo dopo un po' di tempo. Va bene, questo ci fa piacere, ci racconti. Allora, io per anni ho fatto la guardia giurata. Sì. E quindi notti su notti, notti, notti, a rotta di collo. E anche perché gli istituti di vigilanza normalmente tendono a privilegiare alcuni, e facendogli scapolare. Quindi lei ha fatto dei turni notturni molto lunghi. È questo che ci racconta? Esatto. Per anni, cioè. Non... Sì. Sì. Sì, ma non solo, c'è gente che adesso viene presa con contratto determinato e praticamente viene massacrata, fanno turni praticamente mensili se non anche superiori di notte, lì vengono fatti saltare i giorni di riposo settimanali. Certo. E qualche volta vanno anche in doppio turno. Renato, lei ha accusato quali disagi, quali fatiche? Perché dall'aumento di peso ai disturbi del sonno alla difficile gestione dello stress, se lei dovesse fare una fotografia del suo stato di salute, benessere, quali dettagli aggiungerebbe? Così il professor Manfredini prende note, facciamo una considerazione, perché lei ci porta a parlare di coloro che... Le relazioni personali saltano tutte, anche perché uno lavora di notte e dorme di giorno, quindi è difficile incontrarsi. L'esatto contrario di tutto quello che fa il resto del mondo. Poi c'è una forte disistima per il lavoro che viene fatto. Quindi lei, il suo è più un disagio a livello psicoemotivo. Resti con noi, Renato, perché andiamo a sentire le informazioni sui mercati e con il professor Manfredini andiamo ad analizzare tutte le criticità del lavoro a turno, ma chiederemo naturalmente al professor Manfredini che cosa dicono gli studi, che cosa dicono le ricerche e soprattutto consigli, attenzioni, precauzione per prevenire disagi, almeno no, a tutirli. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Che ritmo, che ritmo, ma senti che ritmo armonioso ti serpeggia dentro il cuore. E ti lascia sempre un strano pizzicor. Che ritmo. Allora, noi siamo tornati insieme a voi, parliamo di turni, quindi se siete turnisti, se state tornando dal turno di lavoro, se vi state preparando a iniziarlo, chiamateci, raccontateci quanto costa andare contro ritmo. Ci aiuta oggi il professor Roberto Manfredini, che è in linea con noi, pronto anche a rispondere a Renato, professor Manfredini, che rientra in un caso classico: guardia giurata, turni notturni per lungo tempo. Sì, non solo un caso classico, il caso classico che nessuno vorrebbe, di cui vorrebbe parlare, perché è spinoso, ha sollevato un argomento molto spinoso, nel senso che ci ha fatto capire che alcuni elementi sono anche al di là di quello che si può. Sì, diciamo che forse il suo scontento era molto contrattuale, direi, chiuso parentesi. Il salto del giorno di riposo e per esempio il doppio turno, questi tra virgolette non dovrebbero assolutamente essere consentiti, quindi al di là ben di quello che può dire un medico su quello che riguarda l'adattamento. Il fatto del lavoro a turno prolungato, che abbiamo detto essere il peggiore, esiste, ed esistono delle contromisure che sono delle contromisure però che possono fare qualcosa su tutto quello che lei aveva già un pochino accennato, gli effetti a breve termine e a lungo termine, cioè i disturbi del sonno, i disturbi di tipo del digestivo, i disturbi di tipo somatico, ma possono fare poco e nulla sulle difficoltà molto importanti che il signor Renato ci ha identificato, cioè la crisi totale dei rapporti sociali. Il fatto, certo, per esempio, che in una famiglia la persona deve, noi come medico diremmo, dormire proprio, ma veramente dormire alla mattina, quindi in un ambiente con le mascherine, con nessun rumore, mangiare in certe ore, va al di là del fatto di poter almeno vivere un minimo con la moglie o con i figli, insomma. Quindi direi che dal punto di vista sociale e di questo tipo di disturbo e di disordine possiamo dire ben poco come medici, possiamo sperare ed essere, grazie anche al vostro aiuto, sempre più di stimolo ai datori di lavoro, perché questo è un argomento che deve essere considerato anche adesso, come diceva giustamente il signor Renato, i giovani assunti che sono precari, molto spesso gli si fa fare 10 turni di notte di fila in un supermercato o qualcosa. Dobbiamo essere di stimolo noi e voi perché si cerchi la possibilità di utilizzare con grano salis anche la turnazione per queste persone, per non dare dei problemi di salute a lungo andare. Andiamo a Cristina da Modena e poi chiederemo al professor Manfredini di inquadrarci un po' il problema, quali sono gli organi e le situazioni che, certo, in qualche modo vengono, no, danneggiate dal lavoro a turni, e soprattutto non correttamente distribuito, e poi consigli pratici per prevenire, attenuare e risolvere alcuni tra i problemi più diffusi. Parleremo del sonno, ma anche dello stile alimentare e anche della gestione dello stress. Cristina, buongiorno da Modena. Buongiorno. Benvenuta. Senta, io volevo solo dire la mia esperienza. Sì. Io ho fatto l'infermiera turnista per 40 anni. Sono 5 anni che sono in pensione, ancora adesso faccio fatica a riprendere il ritmo del sonno e tutto, perché io alle 5 e mezza sono sveglia. Quando facevo i turni, che andavo a letto alle 7 del mattino, e al massimo dormivo fino alle 8:30, quindi sono scombussolata ancora adesso. A distanza, grazie Cristina, a distanza di 5 anni, questo professor Manfredini aggiunge anche un altro elemento di riflessione. Professore. Sì, sicuramente la signora, la collega di Modena, rappresenta per esempio una categoria molto esposta al problema dei disturbi dei turni. Non solo perché lavorano con i medici, che questo già quello è già un rischio. Però lavorava, ha detto che ha lavorato per 40 anni, quindi andiamo indietro nel tempo a quando magari ero un giovane medico anch'io, dove le turnistiche del personale sanitario erano molto diverse da adesso, perché per fortuna la medicina del lavoro ha molto ascoltato la cronobiologia, almeno su questo aspetto. I turni all'epoca, non so se la signora mi può confermare, erano spesso settimanali. Una settimana di turno di mattina, una altrettanto di pomeriggio, di notte, e poi c'erano i riposi. Quindi era devastante per l'organismo, che faceva in tempo ad abituarsi al turno del mattino, poi si vedeva spostato pomeriggio, poi la notte, eccetera. E sono su queste corti, il famoso studio americano sulle infermiere che le segue da 40 anni, che si nota per esempio un aumento del rischio di diabete, di sindrome metabolica o di altri disturbi legati a questo tipo di turnazione. Attualmente la turnazione è molto più rapida e quindi è molto meno, fra virgolette, fastidiosa. effettivamente dopo aver fatto per tanti anni una turnazione fissa, l'organismo si è adattato, si è ancorato, come diciamo noi, a quel ritmo, e la signora continua a svegliarsi alle 5. Come cosa dovesse... può fare la nostra amica? Come si può fare per sganciarsi da questo? No? Dunque, intanto bisognerebbe sapere alcune caratteristiche, bisognerebbe sapere un piccolo questionario del sonno per avere un'idea del tipo di sonno o degli eventuali disturbi che ha la signora. Questo perché lei lo ha proprio specificato, lei andava a letto ma dormiva poi solo un'ora e mezza, perché poi magari doveva vivere la vita sociale. Certo. E quindi facendo in questo modo ha accumulato la deprivazione da sonno, in quanto tutti noi abbiamo bisogno di dormire un certo contingente, anche piccolo, ma devono essere due cicli cronobiologici completi di 90 minuti, quindi almeno 180 minuti di seguito fatti bene con la nostra fase REM del sonno sono già riposanti. Poi chi ha bisogno di 6 o di 8, ma un'ora alla volta, 8 ore fatte di dormite di un'ora, non danno nessun sostegno all'organismo rispetto al sonno continuativo. Quindi bisognerebbe capire, farle un piccolo questionario del sonno e qualcosa sulle sue abitudini di vita, per provare a vedere se, aiutandole in un qualche modo, o con le abitudini o farmacologicamente, per esempio con la melatonina, si possa riuscire a ripristinare sulla sua giornata attuale di adesso un ritmo sonno-veglia decoroso, decente, compatibile con un buon stato di benessere. Voglio leggervi anche un messaggio di Luciano, che è un po' un messaggio fuori dal coro rispetto a quelli che stanno arrivando dei nostri amici turnisti. Sono un turnista da più di 20 anni, mi trovo benissimo. Perché ho la possibilità di vestire in tempo libero e in un altro lavoro. Sono inoltre un donatore di sangue, in ottima salute, nonché padre di un bambino di 5 mesi. Allora auguri Luciano e anche auguri al suo bambino. Ha trovato bambino. Anche il tempo di fare il bambino. Ha trovato, vedi, anche lavora, non ci dice se lavora esattamente sempre di notte o quando. Ma professor Manfredini, parlare di turni e di ritmi ci porta a parlare di un ormone che lei ha già citato, coinvolto nella regolazione del ciclo sonno-veglia, la melatonina, che svolge tra l'altro una funzione molto importante, una funzione protettiva nei confronti di molte malattie. Anche se ho letto che l'assunzione di melatonina nei lavoratori turnisti per compensare le eventuali alterazioni delle funzioni biologiche legate al ritmo buio-luce è controverso, o nel frattempo siete giunti a un accordo, a delle indicazioni? No, ha ragione. Intanto bisogna ricordare che la melatonina, che è un ormone endogeno perché viene prodotto dal nostro organismo, è il nostro segnalatore. Quando l'occhio ci dice che c'è il fascio del visivo, ci dice che c'è buio, ecco che c'è un click, un interruttore che accende la produzione della nostra melatonina. È un segnalatore che dice all'organismo: tu adesso mettiti a riposo, dormi, consuma poco e io ti abbasso anche la temperatura corporea perché devi consumare poco. Il fatto che poi ci sia la possibilità di prenderlo dall'esterno in quantità molto superiore a quella prodotta dal nostro organismo può servire in determinati casi, e si è visto che la melatonina per esempio ha un'importantissima azione antiossidante, quindi non è che protegge dalle malattie, ma la maggior parte delle malattie infiammatorie, degenerative eccetera, un tasso di ossidazione importante è un antiossidante. Lei ha ragione, gli studi non sono dirimenti, anche perché pochi sono stati fatti come Dio comanda. E se diciamo la verità, alcuni che sono stati fatti in maniera assolutamente randomizzata e controllata hanno fallito, cioè non hanno mostrato un successo particolare nell'uso della melatonina. Per esempio ci sono studi fatti sulla mia categoria, sui medici con i turni notturni, studi americani molto ben fatti, randomizzati e controllati, hanno dato la melatonina nelle notti successive al turno notturno, non c'è stata una evidenza di grande differenza, quindi direi che non è assolutamente consigliabile se non su base individuale, con un tentativo che il medico effettua su quella persona e a qualcuno può fare bene, ma come consiglio generale no. Andiamo a Claudio, che ci chiama da Monza, perché ci permette di introdurre un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè proprio la salute del cuore, in particolare i livelli pressori che sembrano in qualche modo destabilizzati dal lavoro a turni. Claudio, buongiorno, ci chiama da Monza, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Ecco, se io posso formulare la domanda? Certo, Claudio. Quindi, ecco, apro e chiudo una piccola postilla, il tema è i turni, l'ho capito perfettamente. Quello che voglio dire è, io sono ormai da pochi mesi prossimo a 57 anni di età, ho cominciato come lavoratore precoce a 16 anni, ho già toccato quasi 41 anni di lavoro e dal 2002 faccio turni notturni. Ma a quanto pare, per la legge pensionistica che c'è adesso, nei lavori precoci né nella diciamo, i lavori usuranti che attengo, diciamo, per quanto riguarda la notte, mi danno una mano per quanto riguarda il mondo del lavoro. Questa prefazione solo per dire, scusi? No, non c'è una disciplina che favorisce questo tipo di lavoratori. No, al momento pare che come lavoratore precoce e lavori usuranti comunque mi toccheranno i 42 anni canonici più si apre una finestra di 10 mesi quanto sia, per cui ancora la pensione non la vedo e non ci penso, però questa è una prestazione che c'entra poco. Per quanto riguarda i turni, io appunto come dicevo dal 2002 che faccio notte, facciamo giro H24, è un'azienda che fa stampa ibrida, quindi i tempi di lavorazione sono molto serrati, tocca lavorare anche di notte tutto l'anno e da un anno circa documentato attraverso arrivare Claudio al dunque perché abbiamo anche le strade, quindi fa questi turni notturni, lavora da tanto tempo, è da un anno che soffro di pressione alta, per dormire prendo Stimnox, mi aiuta quello che mi aiuta, ma già mi disturba il fatto che devo prendere medicine per un discorso che non dovrei, e capire se a livello di lavoro potrei chiedere, in virtù della pressione alta che ho ed è documentata, posso sentirmi esente dalla notte chiedendo ci scriva perché il professor Manfredini è un medico e quindi potrebbe, ma gliele darà consigli per quanto riguarda, e anche soprattutto ci racconterà se c'è una relazione, se il lavoro a turni può in qualche modo incidere sui livelli della pressione facendoli aumentare. Fermiamoci, strade, poi di nuovo insieme. Cuore e denari. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi al lavoro a turni. Esistono molti possibili modelli di turno, 12 ore, 3 per 8 ore, rotazioni del turno in avanti, lavoro semicontinuo, 800 24 00 24 per parlarne con noi insieme al professor Roberto Manfredini. Quando cambiare lavoro non è una strada perseguibile, si devono e si possono adottare delle strategie che possono riguardare l'organizzazione del lavoro e proprio per minimizzare il danno. Ne stiamo parlando col professor Manfredini, a cui chiedo di rispondere però anche all'osservazione, al racconto del nostro ascoltatore che, a parte i suoi problemi legati alla pensione eccetera, si vede aumentare i livelli della pressione. C'entra il turno o è lo stile di vita e l'età? No, può certamente centrare il turno. D'altronde vedo che oggi stanno telefonando tutti più o meno coetanei, io ho un po' di più di 58 anni e vedo che comincio i problemi di salute, quindi mi devo cominciare a preoccupare perché effettivamente sono perché anche lei è un turnista, è un'ora X, un'età X. Ho capito che siamo una generazione X. Allora, sicuramente il fatto la pressione arteriosa è regolata secondo un ritmo circadiano, quindi nell'individuo che ha un'attività a luce buio normale, ha il suo picco dalla mattina, poi ha di nuovo un picco pomeridiano e durante la notte sarebbero le ore in cui il cuore e l'apparato cardiovascolare riposano al massimo. Cioè, se potessimo vederci i nostri monitoraggi mentre dormiamo, avremmo 40 battiti cardiaci e la pressione arteriosa molto bassa. Sì. Questo escluso i momenti del sogno. Effettivamente ci possono essere delle inversioni del ritmo, delle modificazioni, delle inversioni in chi fa il turno notturno e anche naturalmente un po' legate all'età, perché avvicinandosi ai 60 anni siamo già all'epoca dell'ipertensione indipendente dai turni, dell'ipertensione arteriosa, e poi ci mettiamo i turni, è possibile che questa naturalmente abbia uno sbilanciamento. Il consiglio è, per esempio, visto che abbiamo le possibilità, fare un monitoraggio delle 24 ore, è disponibile in qualunque centro ormai, per mettere il grafico, per graficare, per far vedere al collega ipertensiologo quali sono i picchi e in quali momenti della giornata, perché poi si può modulare la terapia farmacologica, cioè prenderla in certe ore anziché in altre. Non è vero che la pastiglia della pressione va presa per forza la mattina, dipende dai picchi che noi presentiamo. E quindi cronoterapia e monitoraggio delle 24 ore. Dopo sul fatto di ottenere o meno delle esenzioni, direi che lo status di ipertensione il medico può dare, una volta dimostrata, una esenzione, che è l'esenzione dai ticket, e quindi per quello che riguarda i farmaci o la diagnostica relativa di ipertensione, che sono concessi dallo Stato. Per quello che riguarda il datore di lavoro, presentarlo per avere o meno turnistiche, questo varia, insomma, andiamo sulla legislazione, non più sulla medicina. E noi vogliamo andare ai consigli pratici, professor Manfredini, per prevenire, attenuare o risolvere alcuni tra i problemi più diffusi. Inizierei dal sonno, perché è difficile recuperarlo, perché il sonno del mattino non è ugualmente il ristoratore di quello della notte. È un problema, credo, non tanto d'ambiente più o meno rumoroso, ma anche di temperatura. Sì, la temperatura gioca un ruolo, proprio perché dormire, come dicevamo prima, quando la melatonina abbassa il nostro termostato e quindi siamo un po' come gli animali in letargo, è più facile che dormire con la temperatura elevata, con tutte le nostre cellule, il nostro meccanismo in attività. Di sicuro anche l'ambiente rumoroso e la luminosità giocano il loro. Quindi il consiglio è, sempre parlando di lavoratori turnisti che hanno fatto il turno di notte, di fare in modo che poi loro, durante il giorno, è un consiglio, non faccia una seconda attività o non faccia, cioè, questo dopo sta nel, il signore di prima stava benissimo e la faceva, però come consiglio, per non andare in deprivazione da sonno, bisognerebbe già, mentre ci si reca a casa, fare in modo di non prendere, se possibile, della gran luce, perché la luce poi ci bloccherebbe la melatonina e non ci farebbe dormire, quindi magari utilizzare gli occhiali da sole, poi arrivare a casa e cercare magari di fare una colazione che deve essere leggera, perché una grande mangiata, come sempre, disturba il sonno. Sì. E poi bisognerebbe riuscire, se l'ambiente non è troppo rumoroso, naturalmente oscurandolo, anche a costo di usare la mascherina, eccetera, a dormire, dicevo, quel minimo di sonno continuato, non di sonno interrotto. Perché, ripeto, se una persona mi dice io dormo 8 ore al giorno, ma 8 volte si sveglia e fa un'ora, l'organismo non si riposa. L'organismo ha bisogno di almeno 3 ore continuative. Ogni ritmo cronobiologico dura 90 minuti, prima, cioè sonno fase 1, 2, 3, 4 REM, bisogna farne almeno 2, 90 più 90, cioè 180, cioè 3 ore dormite bene già danno una carica alle batterie dell'organismo. Poi quindi bisogna essere 6, però sì, almeno 3 almeno ore continuative. 180 minuti. Esatto. Allora, abbiamo, vorrei dare, professor Manfredini, anche due dritte, un consiglio per quanto riguarda l'alimentazione, no? Perché salendo sulla bilancia rispetto ai lavoratori diurni e a parità di altri fattori di rischio, i turnisti presentano una frequenza di sovrappeso significativamente più elevata. Insomma, lavorare a turni rappresenterebbe di per sé un fattore di rischio per il sovrappeso, e questo indipendentemente dalla qualità della dieta, del praticare o meno attività fisica, anche dalla malattia pregressa. Com'è possibile? Quali sono le indicazioni da dare e soprattutto gli errori da evitare? Ad esempio, lo spuntino durante la notte pesa di più. Infatti, ricadiamo sempre nel discorso dell'animale diurno. Noi durante la notte il nostro motore è quasi spento. Essendo quasi spento, cioè viaggia ai limiti del minimo, non consuma. Sostanzialmente non consuma. Quindi tutto quello che noi introduciamo non viene consumato, ma viene bensì accumulato. È per questo che i 20, 30 anni di lavoro a turni hanno mostrato nelle statistiche l'aumento, come diceva giustamente lei, della sindrome metabolica, del sovrappeso e anche, per esempio, del diabete. Proprio perché la tendenza, l'abbiamo fatto tutti, anch'io quando facevo la guardia di notte, uno va alla mattinetta, mangia una merendina, certo, deve stare sveglio, stai facendo varie cose, mangia una merendina, eccetera. Quindi questo non va bene, bisogna cercare di fare una cena regolare prima di prendere il servizio e durante la notte idratarsi molto, perché quello fa sempre bene, e cercare però di non fare tanti piccoli snack durante la notte che li pagheremmo con la bilancia. Allora, professor Manfredini, in chiusura avrei ancora Pietro da Milano e Fabrizio della provincia di Verona, a cui chiedo di mandarci una mail che noi gireremo al professor Manfredini, così lo facciamo lavorare ancora di più. Volevo leggerle però il messaggio di un'ascoltatrice che ci chiede: la somministrazione continua di melatonina ad una bambina di 3 anni prima di andare a dormire, ci chiede, è sbagliata? La mia vicina di casa la somministra a sua figlia dall'età di 1 anno e non ha mai interrotto, perché dice che l'unica volta in cui ha provato a toglierla la bambina non ha dormito. Con Deborah abbiamo intercettato questo SMS e abbiamo un po' sgranato gli occhi. Professor Manfredini. Dunque, sono molto perplesso. Le dico la verità, la melatonina, avete visto, non è mai stata brevettata come farmaco. Sì. È un integratore che si compra in supermercato. Perché non è mai stata brevettata come farmaco? Perché avrebbe dovuto avere l'autorizzazione dell'FDA. E per avere l'autorizzazione molto seria dell'ente regolatore americano occorrerebbero studi di lunga durata. Non esistono studi che dimostrino che se anche l'ormone endogeno preso 10, 20, 30 anni non abbia alcun effetto negativo. Non lo sappiamo, quindi semplicemente se non lo sappiamo non lo consiglio neppure agli anziani che lo prendono come salvavita, rimani giovane, antiossidante, come fanno negli Stati Uniti e lo prendono tutti i giorni per anni. Su un bambino sarei ancora più perplesso, e lo dico francamente. Allora, grazie professor Manfredini, abbiamo intercettato questo sms e proprio questo ci ha dato anche l'opportunità di mandare un messaggio alla nostra ascoltatrice, soprattutto anche a chiarire la posizione della comunità scientifica e del riguardo a questo ormone. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi, è sempre un grande piacere. Grazie a voi, è sempre un piacere anche mio. L'aspettiamo presto, buona giornata. E noi invece aspettateci domani, perché non è una minaccia, torniamo puntuali alle 10:30. Buona giornata a tutti.